slick chick. See, I need chick. The C's part of makes me tick. Mama, yeah, yeah, yeah, yeah. Clickety click, I slick chick. Yeah, yeah, yeah, yeah. The high heels on for the baby blues. The very first time, man oh man, yeah, yeah, yeah. It was a night. Yeah, yeah, yeah. Everybody stop, we're on a dime to look. Yeah, yeah, yeah. Even my heart, my heart got a shook. Yeah, yeah, yeah. She's my clickety click, I'll stitch it. Yeah, yeah, yeah. She's Miss Rhythm. She's Miss Rhyme. Oh man, she is mine. I said, oh, I got a stick chick. She's a neat chick. But she bought a make me tick. Mama, yeah, yeah, yeah, yeah. Clickety click, a stick chick. Yeah, yeah, yeah, don't yeah, you know she's a stick? Yeah, yeah. Mama, yeah, yeah, yeah. I stick yeah, a chick. Yeah, yeah. Ah, yeah. Chick. Yeah, yeah. Mama, yeah, yeah, yeah. Clickety click, I'll stick chick. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. I got yeah, a crazy little chick. Yeah, yeah. I don't yeah, you know she's slick. Yeah, yeah. No, no, no. Radio Wombat, Slick Chick, ben trovati, ben trovate. E oggi è mercoledì 7 febbraio, siamo quasi alla fine del carnevale, beh diciamo siamo nell'apice del carnevale, non vi parlerò di maschere, neanche di pulcinella, arlecchino, coriandoli, petardi, tutte queste cose qua, no, oggi vi aspetta una puntata diciamo, come possiamo dire, animalesca sicuramente. Per alcuni probabilmente sarà un po' una sofferenza, beh, insomma, oggi parliamo di insetti, lo so, andava fatto d'altra parte, forse a qualcuno di voi risulterà un po' fastidioso, è diffusa la fobia di almeno alcuni insetti, ragni ad esempio, molti hanno paura degli scarafaggi, ad esempio... Io non ho tutti questi problemi, mi fanno molto più schifo ad esempio gli scorpioni, però il resto devo dire che non mi dà così fastidio, i ragni li considero anzi bellini, abbastanza belli, sì, e quindi con naturalezza e senza grossi problemi vi posso raccontare di tutti questi animaletti buffi, bizzarri, e, beh in realtà come sempre partendo dalla musica e partendo dagli spunti che ci dà, purtroppo non è che andremo proprio a scandagliare l'intero albero degli insetti, beh però diciamo che qualcosa di interessante lo tireremo fuori. Partiamo da uno degli insetti direi più famosi, sicuramente più diffusi e spesso un po' fastidiosi, parliamo della mosca. Anche perché come primo pezzo non potevo non partire dai Cramps con Human Fly, un pezzo del 1978. Human Fly, l'uomo mosca, era il soprannome dato a molti acrobati del XX secolo, quelli che non so se vi ricordate, quelli che negli Stati Uniti scalavano l'esterno dei palazzi altissimi, c'era un po' a un certo punto una sorta di gara a chi scalava il palazzo più alto e chi faceva la cosa più ardita. E questi personaggi buffi venivano chiamati uomo mosca, appunto, i Human Fly. E, ovviamente però Human Fly è anche il titolo appunto di questo brano dei Cramps, che è contenuto in Greatest Hits, che è a sua volta il primo 12 pollici dei Cramps. Nel disco tra l'altro c'erano dei pezzoni, tra cui anche Surfing Bird e Lonesome Town, direi tra i pezzi più ricordati anche dei Cramps. È stato pubblicato questo disco nel luglio del 1979 per la Illegal Records, che già diciamo che la diceva tutta, e la ERS Records. Sono una larva rinata per via della guerra batteriologica, dice il testo. Probabilmente anche un omaggio all'esperimento del dottor K, o in inglese The Fly, il film horror fantascientifico del 1958, diretto da Kurt Newman, che è tratto a sua volta dal racconto La Mosca, The Fly, del 1957 di George Lanslin. Ne abbiamo già parlato, tra l'altro, quando raccontavamo di Cronenberg, ovviamente, perché probabilmente, cioè non probabilmente, sicuramente questo film ha poi ispirato anche La Mosca di Cronenberg. Di questo brano dei Cramps esiste un video super DIY horror che vi consiglio di andarvi a vedere. Vi linkerò sicuramente, vi metterò il link al video online sul podcast, sul nostro sito wombat.noblogs.org, perché non è di facilissimo facilissimo recuperarlo, ma è molto bello. Sicuramente, insomma, fra l'altro è abbastanza raro, ecco. È girato in 16 mm, come regista c'era Alex De Laszlo, e l'audio è parecchio rovinato, in realtà per un grosso pezzo non c'è proprio, dopo parte la musica dopo un bel po', insomma l'audio lascia poi il tempo che trova, ecco, ma le immagini valgono veramente la pena ed è, direi, perfettamente in stile Cramps. Six eyes, I got a garbage brain that's driving me insane. And I don't like a ride, so push that best aside. And baby, I won't care, cause baby, I don't scare, cause I'm a reborn maggot using Jim Warfare. Right. Bello questo pezzo, a me fa impazzire. Ma dopo La Mosca dobbiamo passare oltre, e in particolare ci occupiamo di farfalle, ma no, non proprio farfalle, meglio specificare falene. Le falene sono degli insetti che, come le farfalle, perché non sono perfettamente, già non dovremmo chiamarle veramente farfalle, appartengono all'ordine dei lepidotteri. La distinzione tra farfalle e falene in realtà non risponde a una classificazione scientifica tassonomica, ma deriva un po' dall'uso comune. La vera differenza, come sappiamo un po' tutti, è che la maggior parte delle falene sono notturne, mentre le farfalle sono quasi esclusivamente insetti a volo diurno. Ma al di là della falena, quella che siamo tutti abituati a vedere, perlomeno di notte, quella bianca e eterea farfalla appunto che svolazza sui vetri delle nostre finestre, quello che mi interessava andare a indagare è l'uomo falena, o Mothman in inglese, che è il nome con cui viene chiamata una misteriosa creatura al centro di una leggenda metropolitana diffusa negli Stati Uniti, ovviamente, chiaramente non poteva che essere così. La creatura sarebbe stata ripetutamente avvistata nelle cittadine di Charleston, Point Pleasant, nella Virginia occidentale e nell'Ohio fra il novembre del 1966 e il dicembre del 1967. Quindi, nell'arco più o meno di un annetto, è stato avvistato da più testimoni questa creatura, questo uomo falena. E questi testimoni avrebbero descritto l'apparizione come una specie di essere umano dagli occhi rossi rifrangenti, dotato di ali e di una velocità eccezionale. Fu un cronista della stampa locale che, riportando l'episodio, battezzò la misteriosa creatura Mothman per analogia con Batman, di cui all'epoca stava andando in onda negli Stati Uniti la serie televisiva. E io, ad esempio, ignoravo totalmente l'esistenza di questo meraviglioso personaggio, eppure l'uomo falena ci abbiamo. Ci ascoltiamo quindi dall'album Fondamenta, Strutture e Argini del 2013, gli altri con la falena, quindi ci hanno dato un ottimo assist per parlare di tutto ciò. Gli altri, gruppo hardcore savonese, giovane, ma ormai insomma inizia a non esserlo più, è un qualche annetto che esiste e coproduzione questo disco come gli altri loro, coproduzione DIY totalmente autoprodotta in coproduzione con tantissime etichette, progetti e spazi sparsi per l'Italia, gli altri, la Falena. Joy Lally, Philosophy for Insects. L'album è Why Should I Get Used to It, del 2011. Joy Lally non deve avere un'opinione molto alta degli insetti, perché la sua filosofia per insetti dice: perché fai tutto quello che si aspettano che tu faccia? Perché dici tutto quello che ti dicono di dire? La vita è tua, nessuno può dirti cos'è giusto. E facciamo una piccola pausa nella scaletta di quest'oggi per dare spazio alle comunicazioni che riguardano il corteo del prossimo 17 febbraio, sabato 17 febbraio a Roma, corteo nazionale Defend Afrin, lo slogan per da Kobane ad Afrin, la resistenza curda che lancia un appello anche a tutta l'Europa e anche quindi all'Italia per difendere da qua perlomeno il popolo curdo e la resistenza contro l'invasione della Turchia che si sta consumando in questi giorni, ormai da un bel po', in particolare nella regione di Afrin. Vi leggo i dettagli dell'evento Facebook che trovate sulla pagina di YAM, Iniziativa Antagonista Metropolitana, perché riguardano un pullman che si sta organizzando da Firenze. Ce ne sono due, questo è uno dei due, è organizzato da YAM, Iniziativa Antagonista Metropolitana, appunto, e CSA Next Emerson, che da Firenze si dirigerà verso Roma. Pullman, appunto, che se volete, di cui volete far parte, se volete prenotare un posticino, dovete inviare un messaggio su Facebook, alla pagina Facebook che, di cui sopra, YAM, Iniziativa Antagonista Metropolitana, oppure che la pagina Facebook è facebook.com/YAM Firenze, oppure mandare una mail a yam-fi@mail.com. Vi leggo a questo punto l'appello con cui è stato convocato questo corteo importante sulle ragioni, insomma, c'è poco da dire in realtà, perché spero e penso che tutti ormai sappiate qual è la situazione, ma non fa mai male ricordarlo. Manifestazione nazionale del 17 febbraio a Roma: fermare le bombe turche su Afrin, Rojava, libertà per Öcalan e i prigionieri politici, pace e giustizia per il Kurdistan. Il popolo curdo sta attraversando una situazione drammatica, perseguitato in Turchia dal regime di Erdogan, che distrugge i villaggi nel Kurdistan iracheno, che muove la guerra e bombarda il cantone di Afrin, complici Russia, Stati Uniti e Unione Europea, che resiste in Iran insieme a tutti i popoli. Dopo il presunto golpe, Erdogan ha riempito le galere di oppositori, fra cui migliaia di curdi, compresi sindaci e deputati HDP e anche i due co-presidenti Demirtas e Yüzdag, mentre tutto il mondo trepida per la sorte del leader Öcalan. Ora l'escalation turca con l'aggressione militare al cantone di Afrin per annettersi quel territorio, nell'intenzione esplicita di distruggere l'esperienza della rivoluzione in Rojava. La criminale guerra dichiarata dal regime turco contro il popolo curdo, portatore di istanze di pace e giustizia, pone oltremodo la preoccupazione sulle sorti del leader Öcalan, di cui non si hanno più notizie da 2 anni. Per orare, la sua vicenda, a Strasburgo, davanti alla sede del Consiglio d'Europa, è in corso da mesi un presidio del movimento curdo, a cui si aggiungerà dall'8 febbraio la marcia internazionale per la liberazione di Öcalan, dei prigionieri e delle prigioniere politiche, per la pace e giustizia in Kurdistan, che si concluderà con una grande manifestazione a Strasburgo il 17 febbraio, nel 19esimo anniversario dell'intrigo internazionale che consegnò il leader Öcalan nelle mani della Turchia. In contemporanea della marcia a Strasburgo, manifestiamo insieme alla comunità curda a Roma. Sarà l'occasione per mostrare ancora una volta al mondo quanto l'Italia si avvicina al popolo curdo e non dimentichi le responsabilità del governo italiano quando Öcalan giunse in Italia per chiedere asilo politico, soprattutto per rinnovare l'attenzione e l'impegno nella ricerca di una soluzione pacifica per quel popolo perseguitato. Temiamo per la vita del leader Öcalan, vista la situazione di assoluto isolamento divenuta ormai pratica costante per tutti i detenuti e le detenute politiche. La sua presenza è fortemente necessaria e rappresenta la speranza di un cambiamento radicale rispetto alle logiche degli stati che impediscono ai popoli di vivere liberi in armonia e cooperazione sociale. Il leader Öcalan deve vivere e tornare libero per contribuire a riaprire il dialogo di pace e realizzare una condizione giusta e duratura per il popolo curdo e per tutti i popoli della regione medio orientale. Pace e libertà per il popolo curdo e i popoli del Medio Oriente a fianco di Afrin che combatte e resiste per l'umanità. 17 febbraio, manifestazione nazionale a Roma alle 14 in Piazza della Repubblica. Questo è il comunicato diffuso dal UKI, l'ufficio di informazione del Kurdistan, della comunità curda in Italia e della rete Kurdistan Italia. E molto incentrato, abbiamo visto, sulle sorti di Öcalan, per ovvie ragioni, ma chiaramente l'attenzione di tutti e il cuore di tutti è ad Afrin e a quello che sta succedendo là. Quindi vi ho dato un po' tutte le informazioni in mio possesso e vi sollecito a tenervi informati sempre qui su Radio Wombat. Cercheremo di monitorare la situazione per quanto ci è possibile e di darvi più informazioni possibili riguardo a quello che sta succedendo in quella lontana ma non troppo regione e quello che gli sforzi che stiamo facendo qui in Italia per renderci vagamente utili. Torniamo a noi, torniamo alla nostra scaletta, ci tocca farlo, e dopo Gioielli e la sua filosofia per insetti passiamo a qualcosa di decisamente più vecchio, più là negli anni, perché parliamo di Slim Harpo, I'm a King Bee, del 1957, un blues che ha un numero irregolare di battute, però 15 invece delle solite 12 classiche canoniche del blues. È un brano reso celebre anche dai Rolling Stones, che ne registrarono una loro versione nel primo album del 64. Giustamente Mick Jagger ha commentato anni dopo: ma che senso ha ascoltare noi se potete ascoltare la versione di Slim Harpo? E in effetti non è che gli si può dare torto. Slim Harpo, pseudonimo di James Moore, era conosciuto come un maestro dell'armonica blues. Slim Harpo infatti deriva da Harp, che negli circoli, chiamiamolo così, nei circoli blues, anche se finalmente la parola circolo direi che è un po' tirata via, era il nome dell'armonica a bocca. Il primo di una famiglia di orfani, chiaramente, tra la fine degli anni 30 e i primi anni 40 lavorò come scaricatore di porto e come manovale. Negli anni dell'adolescenza cominciò ad esibirsi nei locali sotto lo pseudonimo di Harmonica Slim, appunto Slim Harpo, accompagnato dal cognato Lenny Slim alla chitarra. Lo stile di Slim Harpo ha influenzato, come abbiamo visto cominciando da Rolling Stones, ha influenzato moltissimi gruppi che vennero poi dopo. Oltre ai Rolling Stones, anche gli Yardbirds, i Pink Floyd, Them, G. Scott Heron anche, The Kinks, The Who, Grateful Dead, Muddy Waters, The Doors, insomma, veramente un miliardo. Questo brano in particolare, I'm a King Bee, il re delle api, ecco, è uno swamp blues, conosciuto anche con il nome di The Exhalo Sound, dal nome dell'omonima etichetta discografica. È uno stile blues distinto, diverso dagli altri, che si è sviluppato attorno a un gruppo di artisti della Louisiana, e qui potremmo aprire, diciamo, un rimando verso la puntata scorsa in cui parlavamo con Dalai Dama di New Orleans. E questo gruppo di artisti, appunto, della Louisiana erano un po' tutti prodotti dal promoter Jay Miller di Baton Rouge negli anni 50. Il termine swamp, ovvero palude o acquitrino, allude chiaramente all'ambiente dei bajou, tipico di una parte della Louisiana. Generalmente ha un tempo lento e incorpora forti influenze degli stili regionali dello Zydeco e Cajun. Quindi ascoltiamocelo, direi. Slim Harpo, I'm a King Bee. Well, I'm a king bee, buzzing around your hive. bee buzzing around your hide. Well, I can make honey, baby, let me come inside. I'm young and able to buzz all night long. I'm young and able to buzz all night long. Well, when you hear me buzzing, baby, some stinging is going on. Well, buzz a while. Dang it, man. Well, I'm a king bee, want you to be my queen. Well, I'm a king bee, want you to be my queen. Together we can make honey the world have never seen. Questo microscopico brano era dei Maldoror, Butterfly Kiss, ben 30 secondi di rumori. Maldoror è uno dei tanti progetti musicali di quel birichino di Mike Patton, qui insieme a Masami Akita. Il nome deriva da, il nome Maldoror ovviamente deriva da I Canti di Maldoror, un poema in prosa del conte di Lautréamont, pseudonimo di Isidore Ducasse, in cui si esprime fondamentalmente un unico personaggio, Maldoror, che rappresenta l'uomo tormentato dell'Ottocento che in un'atmosfera cupa e truce si ribella contro il suo creatore, ovvero Dio, uccide Dio e lo fa a pezzi. I Maldoror si formano quando Patton era in tour in Australia con i Faith No More a metà degli anni 90 e i due, Mike Patton e Masami Akita, iniziano a comporre musica insieme e iniziano ad andarsene in giro a suonare per l'Australia. Poi registrano tutto a Tokyo nel 1997 e lo pubblicano con la Ipecac Recordings nel 1999. Questo quindi era questo pezzettino minuscolo. Continuando nel nostro viaggio in compagnia degli insetti, ritorniamo un pochino sulle mosche, perché in effetti le abbiamo un po' buttate un po' lì. ma è importante come insetto, direi, no? E in particolare ci arriviamo attraverso i Wire, il pezzo è I Am the Fly e l'album è Chairs Missing del 1978. Nei primi anni 70 Colin Newman è uno studente di disegno del Wofford Art College e però è anche molto appassionato di musica e in particolare di musica sperimentale. Inizia quindi a trascorrere del tempo con nastri e strumenti vari insieme al suo amico Brian Eno, che è quando uno ha degli amici di un certo spessore. I Wire registrano per la EMI e lo stesso Newman afferma che la EMI Harvest puntava su di loro come i nuovi Pink Floyd. Non a caso la stampa li chiamava i Punk Floyd, eh? Che simpaticoni questi giornalisti, veramente. Per assecondare questo mood, in Chairs Missing del 1978, come vi dicevo, la band vira verso la musica psichedelica. Effettivamente, i Wire hanno proprio assecondato proprio, diciamo, le tendenze e le volontà anche evidentemente commerciali della EMI e delle etichette. Nel settembre del 1979, il gruppo di ritorno dal tour pubblica l'album 154, dove accresce ulteriormente l'armamentario musicale, c'è cioè una viola, un corno inglese, un flauto, e il suono si fa molto più vicino a dark wave e il noise pop. Proprio all'apice della creatività, diciamo, il gruppo entra in rottura con la EMI riguardo, attenzione, alla strategia di promozione di 154. Il gruppo è determinato a puntare sull'aspetto visivo, ovvero vendere attraverso la televisione, e la EMI non è d'accordo. Quindi il gruppo, anche se non si scioglie, si divide fondamentalmente in due tronconi: quello di Newman, che si dedica a un progetto dall'anima molto più pop, e gli altri due, Gilbert e Lewis, si dedicano a progetti sperimentali di tutt'altro tipo, contaminati dall'industrial, dalla musica elettronica, dal drone e dall'ambient. Poi negli anni, nei decenni successivi, iniziano una sorta di reunion, ma direi che di qui in poi possiamo tranquillamente disinteressarcene, che già troppo abbiamo dato come spazio alle loro noiose strategie di marketing. Ascoltiamoceli che è meglio. I am the fly wire. Think I'm coming. È buffo, non so se notate il diverso modo in cui i vari gruppi e i vari musicisti rendono proprio musicalmente l'idea del ronzio, dello sbattere di ali o del volo degli insetti. In questo senso, effettivamente, gli insetti hanno probabilmente influenzato proprio a livello musicale, sonoro, le varie canzoni, i vari brani che ci stiamo ascoltando. E in questo senso anche Kada, che è il prossimo musicista di cui ci andiamo a occupare, Kada, John Eric Kada precisamente, è un artista, beh, diciamo, poliedrico, che come solista usava il nome semplicemente Kada, e invece poi suonava anche in band con la band Chloroform, più avant-garde e jazz, e poi anche autore di compositore di colonne sonore, soprattutto per i film di produzione norvegese. Abbiamo già ascoltato un brano di Kada, tratto da una collaborazione con il solito Mike Patton, con cui ha pubblicato due dischi. Quello che ci ascoltiamo invece adesso è Kada da solo, The Mosquito and the Abandoned Old Woman. L'album è Music for Movie Bikers del 2006. Thank you. Radio Wombat. Il sito, vi ricordo, è wombat.noblogs.org, da cui probabilmente ci state ascoltando, ma forse anche no. In ogni caso, è il luogo dove, nella rete, dove trovarci e dove sapere un po' tutto sulla nostra radio. E la casella di posta, invece, posta wombat@insiberia.net, è il modo con cui potete conversare con noi. Prossimo pezzo, Adam and the Ants. Giusto per rimanere sul tema precisamente, proprio in maniera letterale, giusto per non farsi mancare niente, il titolo del brano è Ant Music, quindi formiche in tutti i modi citate nel titolo del pezzo, nel titolo del gruppo, ovunque. E l'album è Kings of the Wild Frontier del 1980. Ora, si potrebbe parlare di formiche per tutta la puntata e oltre, io credo. Le formiche sono insetti sociali, questo è ovvio, lo sanno tutti. Gli insetti sociali appartengono a due ordini. Il più antico è quello degli isotteri, ovvero le termiti, ed è interamente sociale. Il secondo, quello degli imenotteri, che comprende le vespe, le api e le formiche, che presentano anche delle forme sociali, ma non solo. Vi è una differenza importante tra le generiche aggregazioni di insetti e le società. Le aggregazioni sono dovute alla convergenza verso un comune bisogno. Nelle aggregazioni talvolta gli individui cominciano a svelare una certa interattrazione e pertanto si parla di gregarietà, che può essere semplice oppure di tipo coordinato. Nel primo caso gli individui, pur mantenendosi in contatto per effetto di interattrazione, manifestano indipendenza di movimenti. Nel secondo caso invece gli individui compiono azioni coordinate, come accade ad esempio nello spostamento in massa di un'orda di cavallette. Ma c'è anche un'entomologia anarchica che confuta le tesi scientifiche o pseudotali, secondo cui il mondo naturale, e quello degli insetti in particolare, sarebbe strutturato gerarchicamente. È molto interessante, secondo me, studiare queste teorie, perché effettivamente il mondo degli insetti è stato sempre preso a modello, fin da quando siamo piccoli, da secoli, veramente da secoli, come un ovvio esempio di modello funzionante di società gerarchica. Da lì deriviamo la nostra convinzione, spesso, che insomma è un buon modello a cui tendere, cioè che comunque il modello gerarchico è quello che funziona e a cui bisogna andare incontro. La distorsione in realtà di questo pensiero descrive le organizzazioni sociali degli insetti appunto strutturate su un modello gerarchico e anche autoritario, e nascono da questa concezione termini che in realtà sono completamente fantasiosi e inventati ovviamente da noi esseri umani, come re, regina, casta sociale, gerarchia, però in realtà quella che viene, se poi andiamo a vedere davvero la vita degli insetti, quella che viene chiamata impropriamente regina, altro non è che un insetto fertile, cioè è l'unico che ha funzioni riproduttive, e però non è per questo un individuo né dispotico né privilegiato in qualche modo. Viceversa, sono gli operai e le api operaie o le formiche operaie, contrariamente a quello che in genere comporta una gerarchia, in genere che sempre comporta una gerarchia, ma sono proprio gli operai che svolgono la vera gestione della società e che prendono anche le decisioni riguardo la difesa, varie mansioni, la cura della prole, eccetera. In realtà la divisione delle mansioni, secondo l'entomologia, quella classica, comporterebbe la suddivisione in vere e proprie caste sociali. Però in realtà lo svolgimento di un compito non determina né privilegio né prestigio rispetto alle altre mansioni all'interno del mondo degli insetti, e questo è evidenziato essenzialmente dal fatto che tutti gli insetti godono delle stesse possibilità di usufruire del cibo, cosa che poi fondamentalmente è quello che decide di tutto. Il limite principale di questi studiosi degli entomologi classici, diciamo, è l'incapacità poi di cogliere gli aspetti cooperativi che si instaurano in natura in generale e nello specifico tra gli insetti. Questa cosa, effettivamente è interessante che non venga proprio colta e anzi si sorvola sempre, quando invece probabilmente è al centro della questione. Queste peculiarità in realtà invece sono state pienamente colte da studiosi anarchici come ad esempio Kropotkin e più recentemente da Murray Bookchin. Vi sono casi molto interessanti di collaborazione intrafamiliari che riguardano ad esempio le termiti e le formiche, in cui le società formate, cioè alcune società formate da individui più piccoli o più deboli, costruiscono il proprio nido vicino o addirittura compenetrato a quelli di società appartenenti alla stessa famiglia, ma più grandi e più forti. Secondo gli entomologi classici, questo modo di agire dei più deboli nei confronti dei più forti sarebbe una sorta di banditismo o di usurpazione ai loro danni. Lo chiamano proprio con questi termini che poi molto spesso si riferiscono alle società umane in realtà. Ed è evidente, o perlomeno è confutabile, è contestabile, perché si tratta in realtà di pura e semplice cooperazione tra due comunità diverse, ma simili. E anche perché altrimenti non si spiegherebbe perché gli individui più forti o più grossi non scacciano quelli più piccoli. Vi rimando a tutto ciò perché ovviamente questo non è il luogo dove potremo parlare a lungo di questo, anche se io lo trovo un argomento molto interessante, ma non ho certamente gli strumenti per raccontarvi molto più di questo, ma vi invito a leggervi un antico ma sempre interessante libro che è Il mutuo appoggio di Kropotkin, che è poi in larga parte dedicato sostanzialmente alle formiche e alle api. Cioè, non ci credete? Andate a leggerlo, è vero. È strano, vero? Però è proprio così. Ma sentiamoci le formiche in musica questa volta. Ant Music, Adam e The Ants. E il soul ovviamente deve sempre comunque andare a parare sul cuore infranto, sugli amori finiti, sugli ex, le ex, su quello, quell'altro, sono un po' fissati, sì. Martha and the Vandellas, ovviamente, Love Bug, Leave My Heart Alone, 1967, e sì, c'erano di mezzo degli insetti, ma è sempre un po' così di striscio, diciamo. E effettivamente Radio Wombat nasce come una radio fiorentina, ma andando avanti ci stiamo rendendo conto che ci ascoltano da ovunque, non soltanto dall'Italia, ma sicuramente non da Firenze e basta. E quindi un saluto a tutti e tutte quelli che ci ascoltano dalla Liguria, dalle varie regioni d'Italia, dal Piemonte, dal sud, centro, e anche da più in là, da Manchester, da Londra, da Parigi, insomma, Madrid anche, vabbè, abbiamo tanti amichetti in giro sparsi e siamo molto contenti, e quindi vi salutiamo. Beastie Boys, il prossimo brano Stink Bug, ed è un brano strumentale, strano per i Beastie Boys, ma è così, un brano contenuto in Hello Nasty. La bag sarebbe un'altra cosa, la stink bug è la cimice, la cimice, spesso chiamate comunemente cimici o cimici dei letti, si chiamano così, entrambi i nomi però in realtà sono poco appropriati, in quanto il nome di cimice è attribuito per estensione alla generalità degli eterotteri, mentre quello della cimice dei letti fa riferimento in senso stretto alla specie Cimex lectularius, mi raccomando, imparatevi questi nomi, la più nota perché associata all'uomo. La maggior parte delle cimicide però non hanno relazioni trofiche con la specie umana, e però va detto che l'intera famiglia è in ogni modo rappresentata da specie ematofaghe a spese di uccelli e mammiferi, perché si parla sempre dei pipistrelli, ma è pure le cimici, le cimici sono ematofaghe. Sono ectoparassiti temporanei dei vertebrati omeotermi ed hanno un regime dietetico appunto ematofago, ma non vivono sul corpo dell'ospite, non sono come le pulci per capirsi, si insediano in realtà invece in microambienti nella prossimità degli ospiti, ecco, intorno. Si rinvengono infatti sui trespoli e nei nidi degli uccelli, nelle tane e nelle abitazioni umane. Sono un po' spiacevoli in effetti, va detto, non sono proprio carine, vabbè, c'è chi piace, però ecco, no, sono attratte dal calore corporeo e dal diossido di carbonio che esaliamo attraverso la respirazione, sappiatelo, quindi siate freddi e non respirate se potete. La bella notizia però è che le cimici possono restare circa un anno e mezzo senza alimentarsi. Normalmente cercano di nutrirsi ogni 5 o 10 giorni, ma se poi butta male si mettono in una sorta di stand-by e aspettano. È così, beate loro, che vi devo dire. Beastie Boys, Stink Bug. We'll be right back. bizzarro, come pezzo dei Beastie Boys, veramente strano. Il prossimo pezzo in scaletta è Grasshoppers, invece, di Ryuki Sakamoto. L'album è Thousand Knife del 1978, questa volta parliamo di cavallette, ma l'album Thousand Knives appunto è chiamato così a partire dalla descrizione che in Miserable Miracle, anzi perché è francese, di appunto di Henri Michaud, in questo libro Henri Michaud dava una sensazione che si prova assumendo la mescalina, sì. Quindi Sakamoto è partito da questo ed ha impiegato circa 500 ore per registrare questo disco, lavorando giorno e notte senza quasi dormire. Ora, io ho fatto un conto con la calcolatrice e sono 20 giorni e non è morto. Secondo me il nesso con la mescalina è abbastanza evidente. Comunque, Sakamoto, d'altra parte, è un personaggio molto interessante. Questo, vabbè, non è che serviva che ve lo dicessi io. Tra l'altro, di lui è noto anche l'atteggiamento critico verso il copyright, la legge sul copyright. Meno male, c'è gente come lui, e nonché anche l'attivismo antinucleare, che in Giappone è cosa fondamentale quanto rara, diciamo. Beh, non rarissima, ma insomma. In testa ho una specie di mappa culturale che mi permette di trovare analogie tra mondi diversi, racconta Sakamoto. Per me, ad esempio, la musica pop giapponese suona come quella araba e Bali è vicina a New York. Il fulcro centrale della sua opera resta il concetto, assimilato peraltro da Wayne Shorter, di fare della duty free music, ovvero una musica libera da doveri. Mamma mia, che meraviglia. Thank you. l'avrete riconosciuto, questo era Aphex Twin con Beatles. E beh, non è che vi potevo far sentire i Beatles perché mi avete preso, ci ho rinfilato però gli scarafaggi tramite Aphex Twin. L'album era Richard D. James del 1900, no, anzi scusate, Richard D. James Album tutto completo del 1996, e disco che contiene una serie di suoni provenienti dagli ZX Spectrum e campiona e riutilizza sostanzialmente Aphex Twin suoni tratti da giochi un bel po'. Beatles è una delle bonus track che si trovano nelle versioni americane, canadesi e australiane, e in poche parole lamenta del problema che Aphex Twin ha con gli scarafaggi in casa sua. Sono cose che capitano, d'altra parte non è che bisogna vergognarsene, succede, è la natura. Proseguendo arriviamo al Mississippi, anzi torniamo direi sul Mississippi, che anche lì di problemi con gli insetti ne avevano un bel po'. Mississippi Bowville Blues di Charlie Patton. Bull Weevil è un traditional blues conosciuto anche con altri titoli simili, Bowville o Bull Weevil Blues, insomma veniva scritto in vari modi. Il testo parla di questo insetto, l'Antonomus grandis, che si nutre dei germogli e dei fiori della pianta del cotone. Alla fine del XIX secolo questi insetti migrarono dal Messico verso gli Stati Uniti, infestando a inizio Novecento i grandi campi di cotone e devastandone largamente l'industria ad essi collegata. Non si sa esattamente quando Charlie Patton scrisse questa canzone, ma fu probabilmente nel 1908, per poi registrarla nel 1929. Crisi economica e crack e boom, vabbè, tutto molto direi simbolico. Blind your cotton and you won't get a heaven sail on her. Oh, we roll you, why you need a hole on her? A Louisiana ring takes a little wild, pretty bone on her. Well, I started bull weave, a lot of snake, a lot of Indiana. I see the bloody hand and family there, Lord. Oh, we will left take a lot of business by you, Lord. Where are you going now? I'm going down to Mississippi, gonna get a loose down our head, Lord. Oh, we will set a woman, they ain't got to do fine. I let one suck all the blossom and leave you a heavy square on her. And next time I see you, I had your family there on her. Boom, your little white wind set out on it. Boom, your total wife, let's take this for the end. Oh, Wadi Ridge, Cosby Corner. Sì, c'era un po' di fruscio, ma no, ma era così il Mississippi, c'era un po' di vento e allora era così, se sapete cosa succede nelle paludi funziona così. Ora, quella di adesso è un po' una perla, si tratta del brano Dance of the Insects, la danza degli insetti di Jean-Claude Petit. L'album è un album che celebra la famigerata e scandalosissima Betty Page di vari autori e si intitola proprio Betty Page Jungle Girl Exotic Music ed è un album del 1998. Sono 24 tracce che vanno dallo psychopop allo swing e quant'altro di bizzarro può venirvi in mente. Ovviamente tutto disseminato di clip tratte dai film di Betty Page. Il pezzo secondo me è veramente... spacca, sentitevelo, sentitevelo. Robine che vi passo qui a Slick Chick. Bene, siamo quasi alla fine, ci mancano due brani. È venuto chiaramente, visto che non vi sarà sfuggito, che c'è un assente illustre in questa scaletta dedicata agli insetti, che è il ragno, e quindi è venuto il momento di parlarne. Lo facciamo attraverso i Cure. Ovviamente attraverso l'Alibi da Disintegration del 1989. Tim Pope, collaboratore di lunga data dei Cure in molti altri videoclip di altri pezzi, raccontò che l'Alibi era un'allegoria del passato da tossicodipendente di Robert Smith. Chissà, in tanti alludono un po' a questa possibile interpretazione di questa canzone, del testo di questa canzone. Un'altra interpretazione invece offerta dallo stesso Smith dice che l'Alibi fosse una rappresentazione in musica dei suoi peggiori incubi e in particolare della sua fobia verso i ragni. E questa è un po' più letterale, ma insomma non è che non sembra poi così strano, soprattutto se guardate il video. L'ispirazione per questo pezzo venne a Robert Smith dai suoi ricordi di infanzia, almeno questo è quello che dice lui, ripensando alla ninna nanna terrificante che suo padre era solito cantargli quando non riusciva a dormire. E dice così: mio padre ne tirava sempre fuori una, avevano tutte un finale orribile, erano cose del tipo dormi adesso bel bambino o non ti sveglierai mai più. Ecco, e qui si capiscono tante cose su quel povero Robert Smith, che a me sta veramente tanto simpatico e quando leggo queste cose ancora di più, cioè poraccio, ma vedi cosa ha dovuto subire, ci credo che poi è venuto su così. Il video di questo brano, dove Smith interpreta sia il mostruoso uomo ragno cannibale menzionato nel testo, che ovviamente non ha nessuna relazione con Spider-Man, cioè con il fumetto della Marvel, e però Smith interpreterà anche la presunta, insomma, la vittima, quella che dovrebbe diventare il suo pasto. E si conclude con Smith ingoiato da quello che sembra essere un enorme ragno gigante. E beh, è un video bellissimo che vi consiglio di andarvi a riguardare se non ve lo ricordate, perché non potete non averlo visto. Magari siete giovinastri e non l'avete mai visto, boh, chissà. Boh. Andate a vedervelo, è molto molto bello. Ecco qua, siamo giunti alla fine di questa scaletta insettosa, piena di ragni, api, formiche e quant'altro, scarafaggi, eccetera, eccetera, eccetera. E con i Coil chiudiamo appunto la puntata di oggi. Coil con Summer Solstice Bee Stings. Summer Solstice Bee Stings, proprio tutto intero così, è la seconda parte del lavoro diviso in quattro stagioni dei Coil, ovvero Seasons, sì, proprio le quattro stagioni dei Coil, non di Vivaldi. È un 7 pollici in, stampato in 1300 copie di un bellissimo colore giallo miele. Io adoro i vinili colorati e quindi questo mi fa molta gola, più altre 50 invece verdi. E beh, ascoltiamoci Coil e poi andiamo a dormire o a fare quello che volete. Vi do appuntamento a mercoledì prossimo, ovviamente sempre intorno alle 9 con una puntata nuova di Slick Chick. E poi vi dico anche ovviamente che la programmazione del Wombat non si ferma stasera con Slick Chick, ma potete rimanere in compagnia della bobina solita oppure con le repliche, che il cui calendario potete andare a guardare sul wombat.noblogs.org alla voce palinsesto, o altrimenti potete restare in ascolto e chissà che vi capita, sorpresa. Quindi basta, appuntamento a mercoledì prossimo e ciao a tutti e a tutte. Ciao ciao! Thank you. Yeah.